Mezzanotte del 25 luglio 1943. Il fascismo è caduto. Il cavalier Benito Mussolini ha rassegnato le sue dimissioni e il re lo ha liquidato. Tristi ore si preparano ancora per l'Italia. La guerra continua, l'invasione siciliana è in sviluppo, i combattimenti delle città proseguiranno ancora spietati. Ma solo questo sentiamo stasera. Il fascismo è crollato. Mussolini non è più altro che un vecchio cavaliere in ritiro.